Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Noi cerchiamo di capire come la società umana pensa la sua relazione con gli animali altri. Siamo al fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista di diritti che noi pensiamo gli spettino. Questa settimana la nostra scaletta prevede di parlare di F-36, l'orsa uccisa in Trentino, ma anche di come sono state cancellate importanti tutele degli animali selvatici e dei boschi più belli e importanti d'Italia. Torniamo a incontrare Silvia Amodio, una persona che avevamo già incontrato in occasione di una intervista alla gallina Nina e che adesso ritroviamo nel suo mestiere di fotografa a favore degli animali. E infine parliamo di corvi, di come il Giappone sta lavorando per limitare la loro presenza in città cercando di usare metodi cruelty free. Non mancherà una ricetta vegana a tema curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, mentre la parte musicale sarà curata da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Non ci eravamo ancora rassegnati all'infame omicidio dell'orsa amarena avvenuto a inizio settembre e siamo ancora scossi per la strage inutile e sadica dei 10 maiali ospiti del rifugio Cuori Liberi di Sairano, ed ecco che il 27 settembre viene trovato il corpo dell'orsa F-36 in Trentino, condannata a morte dal presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti e salvata sulla carta, purtroppo solo sulla carta, dal ricorso al TAR. L'orsa aveva un radiocollare che si attiva per segnalare la morte, la mancanza di vita, e quindi dopo una ricerca in Valbondone è stata recuperata la giovane orsa F-36. L'orsa negli scorsi mesi si era resa protagonista di quelle che i media hanno riportato come aggressioni, ma che in realtà si sono configurate come semplici intimidazioni, volte più che altro a spaventare, a mettere in fuga chi l'aveva sorpresa con la prole, con il suo cucciolo. Prima era toccato a due persone il 30 luglio in località Mandrel e pochi giorni dopo, il 6 agosto, a due escursionisti in località Dos del Gall. In quest'ultima occasione uno dei due uomini si è anche ferito cadendo al suolo dopo essere stato agganciato al laghetto dall'orsa. Due falsi attacchi, quindi, perché quando l'orso vuole uccidere non ha grandi problemi a farlo, viste le sue dimensioni, attacchi appunto classificabili come reazioni di difesa del tutto ordinarie da parte di una madre col suo piccolo all'avvicinarsi di esseri umani che logicamente vengono percepiti come minacce. Comportamenti quindi che fanno parte del normalissimo spettro etologico di questa specie, così come di tutte quelle che mettono in atto delle cure parentali, incluso l'Homo sapiens. Voi avvicinatevi a un passeggino con un bebè per strada e probabilmente vi arriverà una borsettata in testa da parte della mamma. Giù le mani dai bambini, non so se avete presente lo slogan. L'orsa non aveva mai palesato comportamenti problematici in vita sua. I falsi attacchi ci sono stati perché il plantigrado si è trovato improvvisamente a pochi metri dagli escursionisti e ha reagito per difesa in presenza del cucciolo. Non staremo quindi qui nuovamente a spiegare per filo e per segno come e perché questi comportamenti siano normalissimi. Fatto sta che il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, ha bollato F-36 come ennesimo nemico del popolo. L'orsa già portava un radiocollare, per lei si prospettava l'abbattimento, così era stato deciso dal governatore del Trentino. Tutto questo per aver avuto paura per il suo piccolo, per aver osato comprensibilmente reagire all'improvvisa vicinanza con gli umani. In pratica basta essere un'orsa che si comporta da orsa per meritare di morire, questa è la morale della storia. Qui non si tratta di fanatismo animalista, ma di semplice buonsenso, tolleranza, rispetto per le altre specie, anche quando possono rappresentare un rischio per noi. D'altra parte, tutto può rappresentare un rischio. Qualche settimana fa il TAR ha sospeso l'ordinanza di abbattimento perché c'è stato un ricorso e adesso l'orsa viene ritrovata morta. Aspettiamo di sapere l'esito degli accertamenti, ma affermare che il tempismo della morte dell'orsa sia totalmente casuale sembra un ragionamento fatto in malafede. Pensare a un episodio di bracconaggio non sembrerebbe così azzardato. Non si possono fare qui processi alle intenzioni e naturalmente speriamo di sbagliarci, però non riusciamo a non collegare i puntini perché la cosa puzza. In caso di bracconaggio, il mandante, diretto o indiretto, sarebbe chi governa quei territori e chi, a livello politico e istituzionale, non fa altro che seminare odio e intolleranza nei confronti della fauna selvatica, che viene fatta passare per il vero grande problema degli italiani, dell'uomo e delle sue attività. Un ostacolo, un intralcio, un impedimento, un pericolo da togliere di mezzo. Chi siede su certe poltrone legittima certi atti scellerati, dando adito al suo gregge di pecorelle di farsi giustizia da sole. È quindi una specie di istigazione a delinquere dall'alto. Poi, per carità, per adesso sono solo supposizioni, l'orsa in realtà sarà morta anche di raffreddore e noi lo scopriremo. Ma prescindere da F-36 e dagli orsi morti prima di lei, sta montando davvero un clima di odio feroce e si prospettano tempi durissimi per tutta la natura e la fauna selvatica. Alla base di tutto c'è una solita mancanza di conoscenza, di empatia, di sensibilità, di comprensione del mondo naturale, delle sue dinamiche e dell'importanza di ogni specie, qualcosa che dovremmo insegnare a tutti i bambini proprio come gli insegniamo a parlare e a scrivere, ma che non è in programma in nessuna scuola. Questo è un po' il manifesto che abbiamo trovato su vari canali social e che facciamo nostro. Ma in rete ci sono poi anche altre considerazioni, un pochino più complesse, un pochino più complottiste, specialmente dopo che i media hanno pubblicato dei titoli del tipo «Non è stato possibile stabilire la causa del decesso». È un copione che non convince, perché è sempre possibile stabilire la causa del decesso, non fosse altro che escludendo le cause più comuni, come per esempio l'avvelenamento o i colpi di arma da fuoco. Qualcuno in rete scrive che potrebbe anche essere stato un tentativo di cattura finito male e non sarebbe la prima volta. E suona anche strano come, alla luce di tutte le considerazioni fatte, la notizia del rinvenimento della carcassa, perché quando si parla di un orso si parla di carcassa, sia avvenuto proprio nel giorno in cui il TAR di Trento doveva esprimere un parere riguardo l'abbattimento dei lupi in Lessinia. Sembra un messaggio di stampo mafioso, viene scritto da varie fonti che abbiamo trovato in rete. E poi c'è la questione del cucciolo. Dov'è il cucciolo di questa ennesima mamma orsa trucidata? Che età ha? È stato recuperato? Che fine ha fatto? Chi risponderà a queste domande? La PAT, cioè la provincia autonoma di Trento, l'ISPRA, il governo, il ministro dell'ambiente? Tutto questo si teme che rimarrà impunito, per questo c'è in rete e tra gli attivisti animalisti una grande scontentezza e tanta tanta rabbia. Intanto, come ci hanno riportato i comunicati stampa del 28 settembre scorso, mentre viene rinvenuto il cadavere dell'orsa F-36, il Senato cancella le principali norme a tutela degli animali selvatici. Le commissioni riunite Ambiente e Agricoltura del Senato, dopo una lunga seduta, hanno approvato il disegno di legge di conversione del decreto Asset, già questo nome è abbastanza inquietante, inserendo una serie di emendamenti del tutto estranei alla materia e chiaramente incostituzionali, oltre che pericolosi, per gli effetti che produrranno su ambiente, salute, sicurezza ed economia. Gli emendamenti puntano a cancellare ogni forma di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, disapplicando il regolamento europeo che limita l'uso delle munizioni in piombo, che sono anche altamente tossiche per le persone, per gli animali e per l'ambiente, e intende mettere sullo stesso piano l'ISPRA, che è l'organo scientifico di riferimento dello Stato, nonché istituto autorevole nel campo della ricerca e ritenuto affidabile dalla Commissione europea. Insomma, l'ISPRA deve essere messo sullo stesso piano di un comitato tecnico faunistico venatorio composto per la gran parte da rappresentanti dei cacciatori o esponenti politici vicini al mondo venatorio. Secondo le associazioni ambientaliste e animaliste, i senatori, per esaudire le richieste del mondo venatorio, sarebbero addirittura arrivati al punto di violare l'equilibrio tra poteri, impedendo così ai giudici amministrativi di sospendere i calendari venatori illegittimi anche in casi di straordinarietà e urgenza, per intervenire solo successivamente, quando cioè il danno sarebbe irrimediabilmente compiuto. Insomma, è abbastanza allarmante la dichiarazione di guerra che sembra in corso, che sembra in atto verso il mondo selvatico. Anche il vivente vegetale, che è la casa di tutti, non se la sta passando bene. Fratelli d'Italia ha tolto vincoli ai tagli boschivi con un emendamento che appare come una specie di regalo alla filiera del legno. Bonelli ne parla come di un golpe contro la natura. Centinaia di boschi italiani situati in aree definite come di notevole interesse pubblico, ovvero zone dove vi sono tra l'altro bellezze naturali e panoramiche, memoria storica, singolarità geologica, potranno essere tagliati senza più l'autorizzazione paesaggistica della sovrintendenza. Anche questo è un regalino che ci fa il decreto asset. In particolare, questo emendamento è stato presentato dal senatore presidente della nona commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare ed è stato approvato il 27 di settembre con l'obiettivo di rilanciare l'industria del legno. Questo emendamento è stato festeggiato come un alleggerimento del carico burocratico da diverse sigle associative, tutte legate all'economia forestale. Ma per Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde, questa nuova normativa distruggerebbe i pilastri della tutela della biodiversità e sarebbe una palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione. Secondo Valentina Venturi, portavoce del Gruppo Unitario per le Foreste Italiane, è una vera sconfitta perché viene modificata la legge Galasso, che considerava i boschi come parte integrante del paesaggio. Il paesaggio viene definito come quella parte del territorio espressivo di identità, questo nel codice dei beni culturali. Quindi il paesaggio boschivo non sarà più tutelato, né beneficerà una filiera del legno di scarso valore, quello destinato alla combustione. Siamo il maggior consumatore di pellet in Europa, con 3-4 milioni di tonnellate all'anno bruciate nelle case degli italiani. Il mercato sembra intento a grattare veramente il fondo del barile. Si chiama Silvia Amodio e di lavoro fa la giornalista e la fotografa, anche se si è formata come antropologa ed è una persona che, per non abbandonare i suoi sogni, la sua etica, per non piegarsi a fare un lavoro qualsiasi, ha abbandonato Firenze, la sua città, e si è spostata a Milano. In questo periodo i media hanno molto parlato di lei perché nel cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco a Milano è aperta la mostra fotografica Human Dog 23, che raccoglie 40 dei 160 scatti che ritraggono cani con i loro padroni, scatti realizzati da Silvia Modio dopo una chiamata aperta a tutti, quindi un grande casting fatto su base volontaria. Nelle foto troviamo dunque un racconto zooantropologico, come hanno ben descritto i media, ma sentiamo la descrizione di questa mostra dalla voce di chi l'ha realizzata. Mi chiamo Silvia Modio, sono una fotografa giornalista. Da tanti anni mi impegno per cercare di raccontare una relazione, quella tra noi e gli altri animali, da un punto di vista interdisciplinare. Una relazione decisamente molto complessa e non sempre rose e fiori. 9 anni fa ho avviato una campagna che si chiama Alimenta l'amore in collaborazione con Coop Lombardia, che consiste in una raccolta permanente di cibo per animali che viene raccolto in tutti i punti vendita appunto della regione. Questo cibo viene poi distribuito alle associazioni animaliste che ne fanno richiesta. È un aiuto concreto e importante perché sappiamo bene che questi animali nei rifugi o randagi pesano sul buon cuore e sul tempo di pochi volontari. Ad oggi abbiamo raccolto e distribuito oltre 4 milioni di pasti. Porto un dato per tutti. A Milano abbiamo 1300 colonie feline censite per un totale di oltre 22.000 gatti. Ecco, pensate a quanto questa situazione sia un problema di cui le persone volontari tendenzialmente si fanno carico. All'interno di questa campagna io ho avviato anche una serie di attività culturali, anche in collaborazione con altri autori e intellettuali e figure che ci hanno affiancato, primo fra tutti Elio Fiorucci, poi abbiamo fatto un pezzetto di strada insieme a Bruno Bozzetto, recentemente si sono uniti a noi Marco Mazzoli di 105 e Stefania Pittaluga. Ecco, tutto questo serve per amplificare il messaggio che voglio lanciare, ovvero quello di occuparsi della natura a 360 gradi, non considerare animali di serie A e animali di serie B. Tra le attività proposte all'interno della campagna, sicuramente la più importante è il set fotografico. Da 9 anni io realizzo all'interno del cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano, quindi una location bellissima e prestigiosa, un set fotografico dove scatto ritratti ai cittadini che si presentano sul set. E questo è molto interessante perché in questi 9 anni ho raccolto e fotografato oltre 1300 famiglie, quindi questo assume un po' il senso e il significato di una vera ricerca scientifica. Sul set, per ovvie ragioni, si sono presentati principalmente cani, però negli anni ho fotografato anche maiali, galline, capre, oche e conigli. Questo perché sono sempre più numerose le persone che, come abbiamo detto prima, superano quella linea di confine che separa gli animali di serie A, cioè quelli che si coccolano, da quelli di serie B, cioè quelli che si mangiano. È vero che gli animali che si sono presentati sul set sono animali amatissimi, però non sempre questo è un rapporto rose e fiori, perché umanizzarli qualche volta significa non capire quali sono le loro reali esigenze. Andando un po' controcorrente, ogni tanto mi viene voglia di dire non adottate gli animali, perché sono convivenze anche molto, molto lunghe, no? Sappiamo che ormai animali che arrivano a 20 anni non sono più una rarità rispetto a qualche anno fa. E poi perché bisogna adottare con responsabilità. Pensiamo solo ai dati del Covid. Durante quel periodo molte persone hanno preso un animale per avere compagnia, ma poi quando la vita è tornata alla normalità si sono rese conto dell'impegno che questo comportava e sono stati rispediti al mittente nel migliore dei casi, abbandonati invece nei casi peggiori. Quello però che mi affascina del progetto è come non sia di fatto un progetto sugli animali, ma sull'uomo, sulla nostra società e sui suoi cambiamenti. Vedo un po' il cane come una cartina di tornasole, è lo specchio di dove veniamo, di dove andiamo, di chi siamo, con tutte le nostre contraddizioni e debolezze. Ho fotografato anche molte persone straniere di seconda generazione che hanno messo su famiglia e in Italia hanno adottato un cane. Questo mi fa pensare che il nostro paese sia diventato anche il loro e che la presenza di un un animale cancelli quel senso di precarietà e di confusione identitaria vissuto magari dai loro genitori. Quando il lavoro era in Italia, ma il cuore era rimasto appunto nel proprio paese di origine. Quindi questo è davvero non solo un progetto sui cani, ma un lavoro che attraverso i cani ci racconta chi siamo. Vi ricordo che la mostra è visibile al Castello Sforzesco, all'interno del cortile della Rocchetta, dalle 8 del mattino alle 7 di sera, fino al 30 ottobre. Il numero dei corvi si è ridotto di 2/3 in 20 anni grazie al miglioramento della gestione dei rifiuti. È una notizia ANSA che ci è arrivata il 2 di ottobre. Nippon e Nihon significano ambedue letteralmente origine del sole, cioè luogo d'origine del sole, un'espressione spesso tradotta come paese del sol levante, si parla quindi del Giappone. Ma i corvi nella città di Tokyo erano diventati così tanti da oscurarlo, quel sole. Per fortuna cominciano a ottenere risultati le misure delle autorità comunali di Tokyo per arginare il problema legato all'eccessiva presenza di corvi e il loro comportamento considerato di frequente problematico. Negli ultimi 20 anni la popolazione è diminuita di circa 2/3. Lo racconta in un articolo il giornale giapponese online Yomiuri Shimbun. Un risultato raggiunto prevalentemente grazie al miglioramento della gestione dei rifiuti della capitale giapponese. Il nuovo sistema di contenimento della spazzatura in bidoni coperti ha infatti sostituito il vecchio metodo con i tradizionali sacchi che, seppur protetti dalle reti, venivano puntualmente saccheggiati dai volatili con i resti che venivano sparpagliati lungo le strade. Già nell'anno 2001, ripercorre il giornale Yomiuri, il governo metropolitano di Tokyo aveva ricevuto più di 3.700 lamentele da parte di cittadini preoccupati per il disordine creato nelle strade, per il gracchiare costante e per gli attacchi compiuti dai corvi verso le persone. In base a un'indagine sulla presenza dei nidi in 40 circoscrizioni della metropoli, le autorità avevano stimato che circa 36.400 corvi vivevano nella capitale. Tra le misure adottate dalle autorità, quelle di anticipare la raccolta dei rifiuti generati in particolare dai ristoranti e da altri esercizi commerciali a partire dalle 2 del mattino e la diffusione in alcuni quartieri di sacchi dei rifiuti rivestiti da sostanze dal sapore piccante che sono detestate dai volatili. Un sondaggio ha poi confermato che l'aumento dei corvi era legato strettamente alla quantità di rifiuti generati nella capitale e in stretta relazione alla crescita economica della città. Tuttavia, secondo lo studioso Haime Matsubara dell'Università di Tokyo, un calo troppo drastico dei corvi porterebbe effetti indesiderati. Gli uccelli, infatti, consumano carcasse di piccoli animali e diffondono semi di piante tramite le loro feci. Senza questi servizi potrebbero esserci paradossalmente un aumento delle strade insalubri, provocando alterazioni dell'ecosistema. In Giappone, a differenza di altri paesi, il corvo, che in giapponese si dice karasu, anticamente era associato a connotati positivi. Nella mitologia giapponese e nella tradizione shintoista, un corvo a tre zampe chiamato Yatagarasu, di proprietà della dea del sole Amaterasu, a guidare l'imperatore Jimmu verso la fondazione del paese del sol levante. Oggi la versione a tre zampe, considerata di buon auspicio, è utilizzata come simbolo della Federazione Calcistica del Giappone. Prendano nota degli amministratori romani che strepitano per la presenza dei gabbiani e tutti coloro che lamentano un'eccessiva presenza di animali selvatici nei pressi delle città. La responsabilità, come ci insegna questa storia, è solo nostra. Possiamo adottare comportamenti che prevengano o riducano drasticamente queste presenze, ammesso e non concesso che tali presenze rappresentino solo una molestia. Anche questa settimana abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. Questa ricetta, come tutte le altre, sarà a tema, e il tema stavolta è il Giappone, visto che abbiamo parlato dei corvi di Tokyo. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Melanzane ricoperte da una salsa dolce a base di miso. Dal Giappone è una ricetta molto gustosa, semplice e veloce e totalmente vegetale. Il nasu dengaku. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 melanzane medie, dell'olio di semi di girasole, semi di sesamo bianco per guarnire. Per la salsa 150 g di miso bianco, 40 ml di mirin, un cucchiaino di zucchero di canna, un bicchiere di acqua. In una padella mettete tutti gli ingredienti per realizzare la salsa e fate addensare a fuoco lento mescolando spesso. A parte dividete le melanzane verticalmente lasciando anche il gambo. Con la punta di un coltello incidete la polpa realizzando una sorta di griglia con dei tagli piuttosto profondi, senza però tagliare la buccia. Mettete 2 cucchiai di olio in una padella, fate scaldare e quindi disponete le melanzane con la polpa rivolta verso il basso. Fate cuocere a fuoco medio per qualche minuto, fino a doratura. Adesso girate le melanzane e coprite col coperchio, lasciando cuocere ancora a fuoco medio per 10 minuti. La polpa dovrà risultare morbida e cotta, altrimenti aggiungete qualche cucchiaio di acqua e fate cuocere ancora per qualche minuto. Disponete le melanzane su un vassoio e coprite con la salsa. Decorate con semi di sesamo e servite ben calde. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Roberta Marino, Gianluca Masala, Francesco Pagné e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 715 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.